Ieri mattina abbiamo preso a mezzo stampa e i lavoratori del lab a mezzo circolare del programma di svuotamento entro una settimana disposto dalla prefettura, e questo naturalmente non è passato sotto silenzio. I lavoratori sono stati subito convocati dalla cooperativa per un incontro e successivamente si sono convocati in gruppo anche con molti ex lavoratori del Mattei, con molti altri lavoratori dell'accoglienza solidali che hanno partecipato, e abbiamo deciso fin da subito di dare vita a un'ondata di risposta pubblica a questo provvedimento. Tanto pubblico è stato l'annuncio quanto l'è stata la risposta. Il primo passo è stato, diciamo, irrompere al Festival della Repubblica delle Idee, in cui gli ospiti, tra i quali Aboubakar Soumaoro, hanno colto le problematiche portate da decine di lavoratori che stavano in quella piazza per dire: il problema dell'accoglienza oggi tocca tanto utenza quanto i lavoratori stessi, entrambi vengono trattati come pacchetti, come merci da sgomberare e da mandare altrove, senza nessuna garanzia di tutela dei diritti e della dignità, e questa è una cosa su cui non si può stare fermi. Ed è chiaro che appunto anche oggi rilanceremo con iniziative, ritorneremo su Piazza Maggiore, domani ci sarà un incontro con la prefettura in cui cercheremo di portare una voce che vada oltre l'emergenza, rispondere all'emergenza con soluzioni strutturali, quindi bloccare il provvedimento di svuotamento e ragionare invece su applicare un modello più progressivo, più riferito appunto a diritti, uguaglianza tra gli utenti e alla garanzia di una continuità lavorativa e soprattutto delle minime tutele economiche per i lavoratori, che in questo momento sono 35, che rischiano di perdere il posto di lavoro. Mentre di quanti migranti stiamo parlando con questi trasferimenti coatti? Stiamo parlando di 169 migranti, di cui solo pochi. I nuclei familiari con particolari situazioni di difficoltà e disagio verranno trattenuti sul territorio, mentre si parla di un trasferimento in massa in un centro a Caltanissetta, con condizioni che tutti dicono essere molto peggiorative rispetto a quelle del lab di Via Mattei. Sappiamo che proprio sul lab la prefettura aveva fatto una gara in cui non si conoscono ancora i risultati. C'era una proroga fino al 30 di giugno. A due settimane dalla fine, questa sorpresa, perché secondo te? Io penso, intanto risulta incomprensibile per molti, a meno che non si ampli, diciamo, la lente con cui guardiamo la situazione, portandola fino addirittura alle stanze di governo, in cui chiaramente la linea è quella di smantellare un sistema di accoglienza che comunque, a detta di molti utenti, lavoratori e cittadinanza, era tutt'altro che perfetto. Sarebbe da modificare, da ripensare, ma non da distruggere in questo senso. E quindi alla risposta al decreto Salvini, che è stata anche, oltre a proteste di piazza, iniziative dei lavoratori, ma è stata anche il fatto di provocatoriamente lasciare deserti i bandi per i percorsi di accoglienza, probabilmente questa è la risposta politica, quasi una rappresaglia per far vedere dove ritiene di stare oggi il potere e cosa ritiene di fare di quelli che sono i suoi sottoposti, ovvero togliergli qualsiasi garanzia appunto di diritto, di dignità e di umanità.